Asian Tour. Eccola qui, insomma, la nostra Lara Gall. Ecco, ciao Roberto, how are you? Bene, bene, grazie. Te? Sto bene, c'è una bella giornata di sole qua. Siamo a Giuliano, sotto il sole, che ci vuole di più? E quindi è arrivato il momento del primo bacio in tour di questo 20 marzo. Allora sono in compagnia di una bella ragazza qua. Come ti chiami? Barbara. Barbara, ecco, e siamo a Viale dei Gemelli e non ti dico quanto è difficile è stato a trovarlo, perché c'è un'altra tale quale dall'altro lato della città di Giuliano, essendo Gemelli. E chissà, forse c'è un'altra Barbara bella quanto te, è vero? Ma non penso proprio. Buono, buono. Allora, abbiamo raggiunto a Barbara qua, che stava scendendo, dice che stava andando al lavoro. E che lavoro fai di bello? La babysitter. Oh, saremmo dovuti entrare in tourello e seguirsi fino ai bambini, no? A consegnare questo messaggio. Te lo consiglio. E chissà, forse questo maxi messaggio viene proprio dai bambini. Vabbè, vediamo, apriamo e leggiamo. Ok. Barbara, ho capito che sei e sarai la donna della mia vita. Ti amo. Allora, secondo te, da chi può venire questo bel messaggio? E dai bambini? Potrebbe essere, ma penso proprio che venga dal mio ragazzo. Come si chiama il tuo ragazzo? Cristiano. Sì, grande! E questo Cristiano, allora, da quanto tempo siete insieme? Siamo insieme da 4 anni. Oh, 4 anni, allora si può dire che sei la donna della sua vita e sarei pure la donna della sua vita. Sei contento di questo? Sì, ma dipende sempre da lui. Ah sì, wow, sempre le donne che mette in croce le cose. Allora Cristiano, se sei l'ascolto, dipende da te, capito? Allora Barbara, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Sei stato gentilissimo, ringrazio tutta Radio Tour. Spero che questo successo che ci sia adesso ci sarà per sempre. Grazie tantissimo. Ok, allora noi andiamo a raggiungere il prossimo destinatario e ci sentiamo tra meno di un'ora. Grazie Roberto. Ciao, grazie a Fergal. In tour. Vediamo se il nostro Fergal è in linea. Hello Fergal. Hello there Roberto, how are you? Molto bene, grazie. Adesso tu invece dimmi dove sei. Ok, allora con questo sole è una favola proprio. Allora, siamo arrivati al nostro destinatore, anzi siamo arrivati a Piscinola, come si dice questo posto in provincia di Napoli. Però purtroppo non troviamo il nostro destinatore, perché sembra che non risponde al citofono. Sembra che o sta dormendo proprio un sonno forte o è sceso a lavorare. Comunque, proviamo a lasciare il messaggio in cassetta postale e lo leggo adesso qua. Il cielo non è abbastanza grande per scrivere quanto ti amo. Wow, bellissimo questo. E questo viene da Gigi, quindi grande Gigi. E noi adesso scappiamo e raggiungiamo il nostro prossimo destinatore. Però prima di farlo voglio leggere questo messaggio. Scusa, volevo solo chiederti una cosa. Gigi è il mittente? Sì, sì, sì. Sì, il destinatario però chi è? Ah, scusami, è Rossella. Rossella, ok, va bene. No, quindi Rossella, okay, Gigi dice okay. Che il cielo non è abbastanza grande per dire quanto ti amo. Oh, e quindi oggi, okay, essendo una bella giornata di sole, vuol dire che ci sono meno nuvole e quindi il cielo è anche più grande. Molto bene. Ok, allora adesso vai col tuo messaggio. Allora, la Canfora Mobili vi aspetto a Scafati in via Tricino 114 con sconto del 50% su tutto l'arredamento in esposizione dichiarato in offerta. A Canfora Mobili, informazione allo 081 863 95 94. E ecco il tempo di scappare al prossimo destinatario e ci sentiamo tra meno di un'ora, quindi buon lavoro Roberto. Grazie anche a Fergal, ciao. Allora se volete Pachi in tour. Vediamo se Fergal è in linea. La ciao Fergal, hello, ci sei? Yes, I'm here Roberto, okay, I'm here. Bene. Allora Fergal, io sono Nick the Nightfly, dimmi un po' dove sei. Allora io mi trovo adesso a Piazza Borsa e infatti siamo presso il ristorante Trattoria Van Bull. E che piacere quando ho visto che andavamo a Van Bull, perché ho detto oh perfetto, Van e furgone, Bull e Zorro, e quindi per il torrello siamo a posto. Però poi arrivato qua ho visto che è Van Bull, B-W-O-L, e quindi torrello non ti preoccupare, dopo ti porto a mangiare perché siamo quasi arrivati a quel momento. Beh, dopo la pubblicità che tu hai fatto dovrebbero farti mangiare gratis, guarda caro. Vabbè, poi ne parliamo con va bene. E quindi infatti siamo qua con il nostro destinatore che si chiama Pippo. Ciao Pippo. Buongiorno, buongiorno. Allora Pippo, tu che fai qua dentro il Van Bull? Niente, lavoro in sala, lavoro dietro una pizzeria, sono diciamo un tuttofare di questo locale, di conseguenza sono sempre qua dentro, trascorro gran parte delle mie giornate in questo locale. Niente, mi piace come lavoro, divertente, sto sempre a contatto con il pubblico. Niente. Abbiamo finito con questo spot pubblicitario adesso. No, volevo chiedere a People se praticamente, essendo qua dentro sempre, c'è un po' di momento per la vita sociale, per conoscere delle ragazze, eccetera. Ovviamente sì, è naturale, perché altrimenti non sarebbe umanamente possibile trascorrere 365 giorni l'anno in un ristorante lavorando. Sarebbe una cosa normale, quindi di conseguenza ho tempo libero per la mia vita sociale, anche se non è molto, però per il momento è una vita che così deve andare. Allora così leggiamo un po' il messaggio e vediamo se riesci a indovinare di chi viene. È molto lungo questo messaggio, dice semplicemente ti amo. Secondo te chi potrebbe essere? Ovviamente senza ombra di dubbio è Fabiana, perché è la mia ragazza, di conseguenza è l'unica ragazza che ho e quindi per forza lei deve essere. Quindi Fabiana, vediamo, sì! Grande, grande, allora questo ti consegniamo. E adesso sì, come ha detto Roberto, con questa pubblicità ci offre da mangiare? È ovvio, non è naturale. Grande, grande, allora noi andiamo a godere questo buona pasta o buona pizza, vediamo. E Baci in Tour conclude qua, prendiamo la pausa non solo per il Papa, però approfittiamo di questo bel sole, andiamo al mare questo pomeriggio. E l'appuntamento domani mattina con Lara. Ciao Roberto, ciao, grazie, ok, ciao Fergal. Allora, se volete prenotare il vostro bacio consegnato